come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, il numero di telefono, SMS 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire come riassume la giornata il TG di 2. A Damasco l'incontro del capo dello Stato napolitano con Bashar Assad. Il presidente siriano al TG2 dice: pronti a trattare con Israele senza precondizioni. Arrestato ex vicepresidente della regione Puglia Sandro Frisullo nell'inchiesta sulla sanità. Associazione per delinquere e turbativa d'asta, i reati contestati. Nel milanese a Magenta trovati morti in casa due uomini e due donne di etnia Rom. A ucciderli nel sonno probabilmente il monossido di carbonio proveniente da una piccola stufa. Secondo l'Istat, forte aumento delle nascite nel 2008 rispetto all'anno precedente. Grazie agli immigrati sono sempre di più le mamme italiane over 40. Studio aperto. 12.000 euro al mese oltre a lussuosi abiti, viaggi, regali e prestazioni sessuali. Per gli inquirenti era questo lo stipendio pagato da Tarantini all'ex vicepresidente della regione Puglia, Frisullo. L'esponente del PD è stato arrestato oggi per corruzione. Monossido killer, 4 morti a Magenta, tragedia nel milanese, i cadaveri di due donne e due uomini ritrovati in un appartamento, uccisi dalle esalazioni di un impianto malfunzionante o suicidio collettivo, è giallo. Così Erika mi ha convinto a sterminare la sua famiglia. Omar Favaro, appena tornato libero, racconta la sua verità. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, nome Malvero, un papà nero, che ascolta le canzoni veneziane perché sei nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, nome Malvero. E scoppia il caso Aldo Busi, ancora una volta la RAI, che esclude Aldo Busi da tutte le trasmissioni. La RAI di nuovo, come dopo il caso Morgan, come cattedra morale. E poi sulla vicenda di Busi bisogna dire, prima lo chiamano sapendo chi è Busi, sapendo cosa dice Busi perché non è la prima volta, e poi quando fa il Busi, cioè il motivo per cui l'hanno chiamato, lo cacciano. Ma quali sono le dichiarazioni esplosive di ieri di Aldo Busi all'Isola dei Famosi? Quelle naturalmente contro il Papa, perché se c'è una cosa che non si può fare alla RAI, oltre a tante altre cose, è quella di parlare della droga, magari in maniera un po' così sfrontata, come nel caso di Morgan, e poi parlare del Papa. Sentite in che modo. Però dico che se anche il Papa si scaglia contro gli omosessuali, forse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso. Sì, sì, ma questo lo, lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere. Per che le... sia un po', cioè per... si scoprono da sé. Allora, tu... è l'omofobo il vero, che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono un danno per la società. E insomma, alla fine il Papa, un omosessuale represso, questa è la proprietà transitiva del... nel discorso di Busi. Ancora contro l'omofobia, Busi. I miei titoli sono in libreria, io ho già dato un'opera, non ho vissuto per scrivere quest'opera, che è ancora messa in castigo perché sono anticlericale, perché sono, perché dico che il vero problema della società non sono gli omosessuali, sono gli omofobi, sono quelli malati, pervertiti, da curare, siano essi politici o preti, questa è la cosa. Va bene. E allora queste cose non si possono mai dire in televisione, devo dirle qua, o bout de souffle, con il fiato che mi manca, perché penso che da un momento all'altro questa telecamera diventerà buia e io scomparirò. Ed è quello che è successo in realtà, e poi è straordinario, o bout de souffle, perché so che questa telecamera potrebbe scomparire da un momento all'altro. E mi viene un dubbio in questo momento, che magari l'abbiano cacciato, non credo, è una battuta, è una provocazione per questa cosa detta contro il governo Berlusconi. Sentite che non è una stupidaggine, è una cosa molto intelligente secondo me. Io sono una persona profondamente civile. Per me, per esempio, pagare le tasse è un onore, e che io non ho mai avuto un solo centesimo in nero, perché per me pagare le tasse al mio Stato, al mio governo, è un onore. Ma non è, e lo voglio ricordare, non è mica questo. L'unico, qua. Non è l'unico siamo che paga le tasse. Siamo io anch'io pochi, pago le tasse. Perché le due aliquote. Le due aliquote del 23 e del 33, che dovrebbe essere la prima legge da fare di un governo di destra come il nostro, non è mai stata fatta. Quindi se non fanno questa legge delle tasse, meno tasse, ma per tutti, a che cosa è servito Berlusconi? Che cosa ha fatto in 15 anni? Busi. Se non fa questa legge qua, che cosa fa? Come de me, lavora il sud, come de me, perché è vero africano. Miss Italia Style sarà vero. Eccoci qui, 800 24 00 24. Aldo Busi, per me numero uno, non tanto per quello che scrive, per quello che ha detto, scusate, su Papa, quello naturalmente è una sua intemerata, condivisibile o meno, ma perché comunque è una persona di grande intelligenza. E poi, vi dicevo, la RAI ha preso Aldo Busi per l'Isola dei Famosi, anche per questo, anche per fare scoppiare questo casino. Nel 2007, ve ne mando una delle tante, ce ne sono innumerevoli. Questa è una guerra fra froci, cioè i froci privilegiati, quelli che si travestono con una tonaca nera, e noi che siamo invece dei pezzenti, ma è una guerra sostanzialmente fra froci. Loro vivono la loro frociaggine all'insegna del motto vivi nascosto. Noi invece non viviamo neanche la nostra frociaggine, perché l'abbiamo, come dire, dichiarata, e quindi ci è stata tolta. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male qualche cosa dal Partito dell'Amore, e Berlusconi di ieri sulla manifestazione. Sarà una festa, una grande festa di popolo. Noi non facciamo come la sinistra, che sabato scorso è scesa in piazza per scaricare contro di noi insulti e falsità. Noi torniamo in piazza San Giovanni con lo stesso popolo di 3 anni fa e con lo stesso spirito per difendere la libertà e la democrazia, per difendere il nostro diritto. Ma anche la Russa, uno dei coordinatori del PDL, parla di amore. Sarà una manifestazione in cui finalmente non ci sarà odio, non ci saranno vendette, non ci sarà invidia, ci sarà amore per gli italiani, per l'Italia, amore per le nostre tesi. Vogliamo fare pulsare. Di Pietro versus la Russa, ieri sera da Bianca Berlinguer. Non è colpa del giudice quando dispone un'intercettazione su un fatto totalmente diverso, e nel corso di quella intercettazione si vengono a sentire fatti. Si chiamano a strascico. Ma perché non. E la fa parlare. Questa persona, no, ogni tanto si ma è, è comprensibile. Ma no, signora, si fa un po' di. Dottoressa Berlinguer, di colloquio si può ministro, fare. Sì, però adesso lo faccio finire. Sì, dottoressa Berlinguer, è comprensibile. E questo è il loro modo di governare. Alzano la voce, zittiscono l'opposizione, però, non vogliono far sentire parlare a nessuno. Già sono in pieno regime, si sentono già gasati e montati in questo modo di essere. Ancora, poi prosegue lo scontro. È una persona che può consentire nella tua trasmissione che lui dica che si sentono gasati? Gasati, nel senso gasati montati, che vuol dire? Montati. Lo sai in italiano? Montati. E chi è montato? Lei. Io, lei chi? Lei con la barbetta davanti. Ma che cosa dice? Con la barbetta davanti. Ma come prima che parla dello stecchino e della trave. Però, guarda che si dice un'altra maniera. Si riesce a parlare qualcuno gliela trave questa intercettazione. Gasati. A un certo punto la Russa se ne va. È inconcepibile che una democrazia, un presidente del Consiglio, zittisca l'informazione. Ma non ha zittito nessuno. Però, ma come no? Non ha zittito nessuno. Però, ma mi sta zittendo pure lei. Ha continuato ad andare avanti. Vabbè. Però l'ispezione si potrà parlare liberamente. No. C'è uno stato di polizia. No, lo faccio parlare. Non dobbiamo finire. Ha parlato ininterrottamente. Ha parlato ininterrottamente. Se vuole andare avanti. No, non mi faccia come l'abbonino. Vai, Di Pietro, vai. No, onorevole Di Pietro. Ma hai parlato dall'inizio. Ma poi dobbiamo finire la trasmissione. Non fare il buffone, onorevole, dai, Di Pietro, qua, per favore. Siediti lì, povero Di Pietro. Guarda, che io vittima. punto devo sospendere la trasmissione pure con lei, perché non è che non posso è immaginabile. Fare la trasmissione io solo non col mi ministro. Faccio offendere da Di Pietro. Ma stavate polemizzando tutte e due, non è che la offendeva. Io non gli ho dato nessuna parola offensiva, allora, lei, e lei adesso, non è intervenuta, vabbè, a bloccare le sue offese. Ma che devo intervenire? Guardi che lei non è che ne ha dette meno di lui, quindi comunque io a lui non ho detto non niente. Ne ha dette meno si di lui assolutamente. Dopodiché adesso, siccome noi comunque siamo tenuti a sentire una voce del governo e una dell'opposizione, io non posso manco andare avanti col dibattito, perché siccome se n'è andata l'opposizione non posso continuare con il governo. Sì, vabbè, facciamo lo spiritoso. Va bene, 18.50, 800-24-0024, Francesco da Siena, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Proprio a proposito del battibecco di Pietro La Russa a Linea Notte, vorrei fare una domanda e anche una constatazione, così dica, mi dica. Spiega anche lei cosa non ho capito di questa par condicio. Cioè, se la Berlinguer riesce a mettere seduti uno di fronte all'altro di Pietro e La Russa, ma perché non lo possono fare Vespa, Santoro, Floris? Ma è una domanda sincera, non è retorica, voglio solo capire. Questa è la domanda. La constatazione è che trovo eccessiva l'uscita di scena di Di Pietro. Io non ho particolare attrazione per nessuno dei due, sia chiaro. Però qui ha ragione il Ministro, perché che invita Di Pietro a sedersi di nuovo, eccetera. Ci sono state in passato uscite di scena d'effetto molto più efficaci di questa. Questo è sembrato più un modo per attirare l'attenzione, insomma, poco più. Ma guardi, può darsi, ma non è, il punto non è questo, è che tanto... Le discussioni sono sempre le stesse, più o meno. È La Russa che dice ma cosa stai dicendo. Sul primo punto, perché Bianca Berlinguer riesce a mettere di fronte La Russa e Di Pietro e perché non lo fa o non lo può fare Vespa, Santoro, Floris, credo che ci siano questioni molto banali, se vuole, anche per me è una follia, anch'io sono sorpreso, ci sarà sicuramente una questione normativa. Credo che sia il fatto che il TG3 o quella trasmissione è sotto una testata dal punto di vista formale, che è quella del TG3, e non è dunque sotto la responsabilità della rete. La differenza credo sia questa, però è evidente che è una stupidaggine, perché se Bianca Berlinguer può fare una trasmissione come direttrice del TG3 o comunque sotto la testata del TG3 in cui ci sono Di Pietro e La Russa, non si capisce perché non la possono fare anche gli altri. È stato chiarissimo. Apro una piccola parentesi su Busi, quelle sulle due aliquote sono state parole sacrosante. E le rimetteremo, grazie. Massimo da Torino, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Senta, volevo interloquire su un paio di argomenti. Il primo era sulla questione della giustizia, nel senso che da anni, da più di un decennio, Berlusconi ha un teorema, che è quello che una parte della magistratura agisce politicamente, scientificamente, diciamo, contro il centrodestra, contro di lui in particolare. E soprattutto che esiste una giustizia a orologeria che nella campagna elettorale tira fuori qualche elemento contro il Premier. Direi che quello che è successo oggi in Puglia smentisce questo, oppure dà ragione a lui, ma a una magistratura politicizzata a 360 gradi, che quindi danneggia entrambe le parti. Quindi questo mi sembra un elemento comunque interessante, diciamo, perché il focus di Berlusconi contro la magistratura direi che sarebbe da allargare su un aspetto un po' più eterogeneo, ecco, non è proprio esattamente contro di lui. Forse o non è vero, oppure quindi la magistratura fa il suo lavoro di magistratura e se trova degli elementi contro Berlusconi o contro la giunta di sinistra della Puglia li tira fuori. Sì, c'è da dire, Massimo, sulla vicenda di Frisullo era una questione in ballo da un sacco di tempo, non è una cosa nata negli ultimi giorni, non nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, come invece è l'inchiesta di Trani. A me pare sull'inchiesta di Trani che si arrivi davvero all'incredibile. Cioè, io ho, come peraltro spiegano e dicono diversi esponenti del Partito Democratico, ci sono molti molti dubbi su quell'inchiesta, il modo in cui è iniziata, gli obiettivi che ha, che secondo me sono quelli di veder sfilare a Trani un sacco di gente famosa. Io lo dico molto sinceramente, Massimo. Guardi, io lo inquadravo, diciamo, su una prospettiva storica, nel senso che non è che l'inchiesta di Trani sia nata in un clima normale. Ormai è anni che ogni pronunciamento della magistratura è se contro una parte politica, ovviamente, soprattutto se è contro Berlusconi. Sì, sì, va bene, questo lo sappiamo, quella è l'interpretazione. È una presa di parte di una certa magistratura, poi magari fanno il lavoro onestamente da magistrati, diciamo, e questo a me, insomma, poi ci sono probabilmente delle situazioni, sinceramente non so analizzare se quella di... No, ma dire tu cur che la magistratura, una parte della magistratura, certo può essere un'esagerazione o comunque una generalizzazione. La ringrazio. Angelo da Pescara, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Senta, io la seguo spessissimo, sono veramente, cioè mi piace moltissimo il suo modo di interloquire con le persone, anche se a volte non è facile interloquire con lei. Dica, Angelo. Allora, io vorrei dire due cose. La prima è che mi sembra molto giusto il fatto che lei abbia messo insieme all'inizio della trasmissione l'intervento di Aldo Busi alla trasmissione dell'Isola dei Famosi e poi immediatamente dopo l'intervento di Pietro della Russa. Mi sembra che facciano parte tutti quanti di uno stesso meccanismo nel quale ormai siamo completamente tutti coinvolti. Cioè quello della rissa? No, non tanto. E qual è? Questo. Scusi, cioè, nel senso che mi sembra che nello spettacolo, spettacolo così come nella politica è un po' come mettere tutto ciò che sia sul piatto, mettere tutti gli ingredienti sul piatto, cioè bisogna spararla grossa, questo dice mettere nelle condizioni che qualcosa possa succedere, mettere nelle condizioni che lo spettatore sappia che qualcosa può succedere da un momento all'altro in televisione e stare lì sulla lama del rasoio fino a quando si capisce se succede o no e se succede di che portata è quello che succede. Cioè voglio dire, Aldo Busi è una personalità da questo punto di vista diciamo che conosciamo e quindi ho capito Angelo, però il ragionamento si fa complicato, è anche un po' filosofico. Eccoci qui, 1918 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire come titola il TG3. L'inchiesta di Trani, tornano a Roma gli ispettori di Alfano, gli atti su Berlusconi al Tribunale dei Ministri, Agcom istruttoria su Innocenzi. Inchiesta sanità in Puglia, arrestato l'ex vicepresidente della regione Frisullo, Bersani l'avevamo già sostituito, ci affidiamo alla magistratura. Dalla consulta no alla sospensione del decreto salvaliste, dopo la riammissione di Sgarbi nel Lazio si rischia il rinvio. Napolitano in Siria, sono molto preoccupato per i nuovi insediamenti a Gerusalemme Est, Damasco essenziale per il processo di pace. Per le strade di Cuba, madri e mogli dei detenuti politici protestano per la difesa dei diritti civili e della libertà. Il fratello di Elisa Claps, ho riconosciuto gli oggetti di mia sorella, la scientifica al lavoro sul corpo della ragazza, scomparsa nel 93. Cominciata all'Aquila la rimozione delle macerie dal centro storico, il sindaco ci vorrà un mese e mezzo, preoccupati i cittadini. C'è anche la questione di Sgarbi adesso sulle liste nel Lazio con possibilità di rinvio. Oggi ha detto io sono il PDL, io sono Berlusconi, il centrodestra deve votare per me nel Lazio. Va bene, Sky TG24. Giustizia, Berlusconi insiste da Napoli, serve una riforma radicale. Bersani risponde, dovrebbe avere più rispetto per le istituzioni. Tangenti della sanità, emanate l'ex vicepresidente della Puglia, Frisullo. L'inchiesta di Trani, da domani attesi a Roma gli atti sul Premier. Commissario sotto istruttoria, Innocenzi finisce nel mirino della Agcom. Bimbo morto a Genova per l'autopsia fatale, lo sfondamento del cranio. Caso Claps, in corso l'incidente probatorio sui resti trovati a Potenza. 2 anni per liberare l'Aquila, è cominciata la rimozione delle macerie. Razzo da Gaza, un morto in Israele, rivendica un gruppo ultraradicale palestinese. Europa League, la Juve come l'Inter cerca la qualificazione da Londra. Viva la Rai, viva il sparano solo per noi. Impazza ancora la questione Rai, la questione talk show. Come avete sentito, Santoro trasmetterà il 25 in diretta, addirittura su Sky TG 24 dal Bologna, dal Paradozza. E però parla di un Watergate, cioè quello che sta accadendo a Trani e dintorni negli Stati Uniti. Se fossimo negli Stati Uniti con gli stessi personaggi eccetera eccetera, sarebbe come il Watergate. Sedetevi a tavola, bevete un tè e decidete di cambiare nome ai protagonisti dell'ultima vicenda che sta riempendo i giornali in Italia. Quindi chiamate il Presidente del Consiglio, che effettivamente è meglio nemmeno nominare oggi, col nome di Mr. Obama. Chiamate il Presidente dell'Autorità per le Garanzie col nome dell'Authority americana, Federal Communication. Fate sviluppare questa vicenda nella quale sono stati presi tutti insieme a complottare contro una trasmissione. Loro dicono che non c'è niente di illecito. Io dico che a questo punto negli Stati Uniti d'America sarebbe scoppiato un Watergate. Paghiamo allora questo abbonamento per mantenere. Adesso, il Watergate mi sembra un po' esagerato. Comunque è quello che dice Santoro. Se fossimo stati in America, il tentativo di Berlusconi di condizionare la G-Com eccetera per far chiudere anno zero. Pochi minuti fa in un comizio a Napoli Berlusconi ha detto: se non fossi intervenuto io, comunque dovevo intervenire, perché a un certo punto gli italiani non avrebbero più pagato il canone, perché non si possono fare processi in TV. E Berlusconi si riferiva a qualche qualche puntata di Santoro contro Cosentino, contro altre persone. La censura, Santoro. Non è dato in natura che un Presidente del Consiglio possa dire: io intervengo a destra e a manca per far chiudere un programma televisivo. Negli altri paesi civili una cosa del genere non si tollera. Se noi commettiamo dei reati, ci sono i magistrati per giudicarli. Se noi commettiamo delle violazioni, ci dovrebbe essere un arbitro indipendente che le giudica. Ma se l'azione viene immessa in circuito per impulso del potere politico, questo non è controllo legittimo, questo è, si chiama in un unico modo, censura. E quello che noi abbiamo vissuto è censura. Sarà vero, dopo visita di avere un papà. L'audio del giorno è quello di Aldo Busi, ancora una volta la RAI. Perché? Perché la RAI, questo è il mio parere, naturalmente si erge in questo caso a cattedra morale dell'Italia. Non si può parlare in maniera un po' sfrontata. Comunque un cantante che ha parlato di droga, dei suoi abusi, non può cantare a Sanremo. E Aldo Busi, che è Aldo Busi, cioè non è un'altra persona, lo hanno scelto in quanto Aldo Busi. Dice certe cose sul Papa, via da tutte le trasmissioni della RAI. Sentite cosa ha detto Busi. Però dico che se anche il Papa si scaglia contro gli omosessuali, forse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso. Sì, sì, ma ecco, questo vabbè. Lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere. Si scoprono da sé. Allora, è l'omofobo il vero, che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono un danno per la società. L'omofobia, la vera malattia che c'è in Italia o nel mondo, comunque insomma la vera malattia di questa nostra società contemporanea è l'omofobia, altro che la omosessualità. I miei titoli sono in libreria, io ho già dato un'opera, non ho vissuto per scrivere quest'opera, che è ancora messa in castigo perché sono anticlericale, perché dico che il vero problema della società non sono gli omosessuali, sono gli omofobi, sono quelli malati, pervertiti, da curare, siano essi politici o preti, questa è la cosa. E allora queste cose non si possono mai dire in televisione, devo dirle qua, o Budisoufle, con il fiasco che si manca. O Budisoufle, straordinario, Busi è il numero uno assoluto. D'altra parte, se uno prende Busi, prende anche il Busi del 2007, sentite. Oggi in Italia deve affrontare il tema dell'anticlericalismo, bisogna essere profondamente, scientemente anticlericali. Uno non si deve professare niente, non voglio ombre teocratiche all'interno dell'amministrazione della cosa pubblica. sempre in questa manifestazione e comunque in moltissimi interventi pubblici eccetera eccetera, Busi, preso dalla Rai in quanto Busi, si esprime in questo modo, per esempio nei confronti della nostra carissima amica, non ce ne voglia, ma è solo un esempio, una, la dimostrazione del fatto che prendono Busi e poi lo cacciano perché fa Busi. Binetti. Il fatto è che se lei non intende imporlo a me, lei può mettersi non soltanto un cilicio, ma può ficcarsi anche un frustino su per il buco del culo. E questo è Busi, cosa si aspettano? Che cosa si aspettano? Che a un certo punto così all'Isola dei Famosi, in quel contesto, in quella situazione un po' sbracata, un po' così, di faccia un'altra persona, diventi un'altra persona? Ma Lucci e Gaucci, ancora la straordinaria coppia Lucci-Gaucci, alle Iene. Luciano Gaucci è di nuovo papà, il settimo figlio. Ricordiamoli tutti quanti i nomi, via. Riccardo, Alessandro, Federica, Isabel, Leonardo, come si chiama? Come? Christopher e Beatrice l'ultima. E Beatrice. La capacità riproduttiva di Gaucci. C'è sempre sto misellaccio! È inarrestabile. Ma quando lo metti a riposo sto misellaccio? Mai. Straordinario, non si ricordava nemmeno i nomi dei figli. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non è malvero. Io sono una persona profondamente civile. Per me, per esempio, pagare le tasse è un onore. E che io non ho mai avuto un solo centesimo in nero. Perché per me pagare le tasse al mio Stato, al mio governo, è un onore. Ma non è, mica l'unico, qua. Non è l'unico siamo che paga le pochi, tasse, siamo io anch'io pochi, pago le tasse, perché le due aliquote del 23 e del 33, che dovrebbe essere la prima legge da fare di un governo di destra come il nostro, non è mai stata fatta. Quindi se non fanno questa legge delle tasse, meno tasse, ma per tutti, a che cosa è servito Berlusconi? Che cosa ha fatto in 15 anni? Mara, se non fa questa legge qua, che cosa fa? E a proposito di Berlusconi, le tasse, no, i magistrati. I temi e i tempi della campagna elettorale sono stati dettati dalla magistratura politicizzata amica della sinistra. Sarà vero, dopo Miss Italia, vero. Questo a Napoli. Pietro da Torino, buonasera, 800-24-0024 per chiamarci in diretta. Pietro. Buonasera. Dica. Volevo parlare a proposito della prima parte dell'intervento di Busi che ho sentito poco sì. fa. Non quella riguardo le tasse, riguardo al Papa. Voglio dire questo velocemente, secondo me la Rai ha fatto malissimo a far partecipare Busi, ma ha fatto benissimo a censurarlo dopo, perché il Papa per me e per migliaia di cattolici non è uno qualsiasi, ma è la presenza di Cristo sulla terra, quindi un conto è insultare me, e va bene, un conto è insultare uno che per molti di noi è come fosse un padre. Il padre, quindi non è tutto uguale, ecco, chiaramente Busi può pensarla come vuole, però deve rispettare soprattutto queste persone. Sì, come d'accordo, ma Pietro, io non metto in dubbio che Busi sia una persona sopra le righe, però ci sono due problemi. Il primo è questo, tutte le persone sopra le righe non possono essere ospiti o non possono essere contrattualizzati dalla RAI? Allora decidiamolo e va bene, cioè la RAI come cattedra morale. Numero due, perché hanno preso Busi allora? Non è che Busi, quello che ha detto prima non vale solo quando lo dice all'Isola dei Famosi, tutto quello che ha detto prima sul Papa, sugli omosessuali, sui preti, eccetera, non vale più. Allora quando funziona questa esclusione da parte di chi è... No, nei confronti di chi è un po' sopra le righe, funziona solamente quando si è in grandi programmi, quando si è invitati in certi contesti, oppure no? E poi no, prego, dica. Ma scusi, se io insulto per la strada il Papa sono passibile comunque, certo, vale per tutto. Ma no, non mi pare che lei sia passibile comunque, perché c'è un sacco di gente che insulta il Papa ogni giorno, non succede nulla. Sì, non volevo dire dal punto di vista penale, voglio dire se io insulto il Papa per strada comunque insulto milioni di persone comunque, quindi a maggior ragione in una trasmissione se vogliono fare intervenire Busi dicono guarda le regole sono queste, non andare a insultare a destra e a sinistra, se poi lo fa guarda che ti facciamo, cioè secondo me è abbastanza semplice. Non credo che nelle regole ci sia scritto, ci sia scritto. Non so, sì, ho capito. A me, io non voglio che venga insultato il Papa in questo modo. Contesto l'esclusione dai programmi Rai perché ha detto queste cose sul Papa. Io la contesto questa esclusione. Cominciamo a dire che poi possiamo ragionare se farlo entrare o non farlo entrare, voglio dire. Questo è un discorso più ampio. Io voglio solo soffermarmi sulla prima parte. No, ma certo, ma la critica a quello che ha detto Busi, naturalmente. No, perché devo dirlo, perché sembra. Cioè, è un tendere al ribasso continuo. No? Va bene, grazie. Non sono certo io che posso decidere le regole. Certo. Grazie Pietro. Grazie per lo spazio. Grazie a lei. Danilo da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, volevo parlare in merito ad Aldo Busi e quello che ha detto. Prego. Io, diciamo, do ragione solamente sulle tasse e anche sul clero. Danilo, abbassi la radio però, oppure spenga, perché altrimenti sentiamo un ritorno. Grazie. Sì, sì. Spenta. Prego. Allora, niente, volevo dire che io ero agente di commercio. E anche io ho dovuto chiudere la partita IVA perché ero sovrattassato. Senta, o ci mettiamo d'accordo su questo, o ci sarà un ritorno strano, ma la sentiamo veramente male. Luca da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Senta, uno dei primi ascoltatori si meravigliava per il fatto che per la par condicio, come facesse Berlinguer a ospitare degli ospiti politici, rispetto, sì, insomma, ai vari Santoro, eccetera. Io invece mi chiedevo ancora di più come, appunto, dopo tutto questo gran parlare di par condicio, Berlusconi potesse andare al TG2 come prima notizia nei titoli e fare praticamente un comizio elettorale. Per lo stesso motivo, Luca, lo stesso motivo per cui la Berlinguer può fare una trasmissione, è se volete una cosa di lana caprina, un po' una cosa ridicola, cioè siccome le testate giornalistiche naturalmente tengono conto dell'equilibrio, ma possono tranquillamente ospitare dei politici, le testate e non le trasmissioni, è una cosa diversa. No, ho capito, però è chiaramente ma cioè, ci sarà lo stesso spazio per Bersani, Luca, non si preoccupi. Ci sarà lo stesso spazio, vedrà al TG2, poi figuriamoci, lo stesso spazio per Bersani. Va bene, aspettiamo. Non si scaldi, è così. No, va bene. Bene, Michele da Livorno, buonasera. Luciani, buonasera. Arrivo subito al dunque, volevo parlare di Busi. Lei si domanda per quale motivo la RAI invita Busi, visto che Busi è quello che è, dice quello che dice, e poi quando lo dice lo esclude. Il giochino è proprio questo, mi sembra ovvio. Il giochino è quello di chiamare Busi, perché tanto si sa che prima o poi la sua sul Papa o comunque su qualsiasi altra cosa che riguarda l'omosessualità, io condivido pienamente quello che lui dice, poi alla fine la dice. Allora la RAI a quel punto lì deve fare la gran bella figura di escludere Busi. La persona che mi ha preceduto, quello di Torino, è la classica testimonianza. Ha detto pari pari questo. Cioè che ha detto, mi scusi? Ha detto semplicemente Busi, persona che giustamente dice quello che dice, poi però va escluso perché è giusto escluderlo per quello che dice. No, attenzione, l'ascoltatore da Torino non ha detto che è giusto escluderlo. Lui ha detto semplicemente che Busi dice delle stupidaggini. Punto. Lui dal suo punto di vista... Vabbè, dal suo punto di vista, certamente. Non ci mancherebbe altro. Certo che dal suo punto di vista... Però io non voglio puntualizzare su questo, voglio dire che il giochino della RAI è semplice, è chiaro. Si prende un personaggio che alla fine la sparata la fa e poi si esclude e si crea il caso, no? Mi sembra ovvio, Cruciani, tanto... Non lo so, guardi, probabilmente è così. Probabilmente Busi viene preso in quanto si sa prima che sicuramente provocherà qualche casino, o quando esce, o quando è ancora dentro l'isola, o quando, non lo so, in che occasione, in che momento, quando è in studio, eccetera. Però, ripeto, siccome è così, allora escluderlo perché ha detto delle parole un po' sopra le righe sul Papa, l'omofobia, il Papa, i preti omofobi, che poi nascondono l'omosessualità, eccetera, eccetera, mi sembra una cosa ridicola. Se ne parla, ci sono le critiche, eccetera, ma l'esclusione dei programmi della RAI, insomma, francamente mi sembra una cosa che non ha senso. Perché, ripeto, allora non si sa più qual è il confine. Non si può parlare della droga in un certo modo, peraltro nemmeno in una trasmissione RAI, ma fuori da un contesto da un contesto Rai, cioè un'intervista ad un settimanale, un mensile, e uno viene escluso da Sanremo. Non si può parlare di non so, delle tasse di Berlusconi o del Papa. Ripeto, non sto guardando il modo in cui l'ha fatto, sto parlando semplicemente dell'argomento, e allora si viene esclusi dalle trasmissioni. A me sembra, insomma, una cosa un po' ridicola. Grazie. Marco da Bologna. Buonasera, la ringrazio Cruciani per consentire l'intervento. Dica. No, io volevo semplicemente dire che mi sembra molto ipocrita il comportamento della RAI. Io personalmente sono d'accordo in quello che dice Busi, nel senso, un dialogo aperto, franco, lui la pensa così, non trovo niente di male. Io personalmente sono un laico, quindi non mi piace questi comportamenti ipocriti dal calcio che non si può bestemmiare, rispetto a tutte le cose, però come dice giustamente lei, non può la RAI ergersi a paladino di che cosa? La gente ha il diritto anche di parlare, cioè siamo uno stato laico, perché non si può dire queste cose? Io non riesco a capire. Ma guardi, non è che non si possono dire, la RAI naturalmente esclude Busi da tutte le trasmissioni perché ha detto che il Papa, essendo un omofobo, essendo gli omofobi, poi bisogna anche vedere, insomma, chiaramente quella di Busi è una provocazione, una generalizzazione, come si fa a dire il Papa è un omofobo? Cioè, quello che io dico è perché la RAI diventa improvvisamente su tantissimi argomenti una sorta di cattedra morale per cui alcuni possono fare le trasmissioni, essere ospite, altri no. Prima cosa. Seconda, Busi viene preso in quanto Busi. Allora perché l'hanno preso quando si sapeva che era uno che diceva che il cilicio la Binetti se lo può mettere e lo sappiamo dove? Perché questo ha detto un anno fa, due anni fa, ma ne ha dette di cotte e di crude su tutto. Grazie. Luigi Amicone, direttore di Tempi. Ciao, come stai? Ciao, ciao. 30 secondi di pubblicità, torno subito da te. Eccoci, 19.45 con Luigi Amicone, direttore di Tempi. Allora, è giusta secondo te l'esclusione? Hai sentito innanzitutto Busi? L'hai sentito? Sì, ho sentito. Hai sentito anche l'audio o no? No, l'audio non l'ho sentito. Allora te lo faccio sentire, va, te lo faccio sentire, così ci ragioniamo, se è il caso di ragionarci. Poi. Sentiamo Busi ancora, Busi sul Papa. Busi sul Papa, arriva, eccolo qua. Però dico che se anche il Papa si scaglia contro gli omosessuali, forse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso. Sì, ma questo lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere. Si scoprono da sé. Allora, è l'omofobo il vero, che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono un danno per la società. Allora, Amicone, per una cosa del genere è giusto essere cacciato dai programmi della RAI? Cioè dire in televisione, in una trasmissione popolare, eccetera, che il Papa è sostanzialmente un omofobo, un represso, ma questi sono insulti gratuiti, capisci? Cioè, tu hai uno strumento, hai un cannone mediatico e dici quello che in quel momento ti passa per la testa. Se non sei in grado di trattenerti, certo, l'altra osservazione da fare è chi l'ha invitato. No, appunto, io dico una cosa, c'è una grande ipocrisia in questa vicenda, perché se uno invita all'Isola dei Famosi Aldo Busi, con il passato di Aldo Busi, perfetto, che non è un passato da agnellino, da uomo di chiesa, da uomo insomma, da uomo santo e pio, è Aldo Busi con i suoi eccessi, le sue genialità, eccetera, eccetera. Poi una volta che lui fa Aldo Busi, cioè il motivo per cui tu l'hai invitato, perché non è un altro motivo, perché vuoi che faccia Aldo Busi, lo mandi via. È questo che mi stupisce. Infatti il passaggio successivo è questo, perché nelle aziende i direttori, i capi rispondono delle decisioni che prendono. Chi è che ha invitato precisamente? Chi è che ha deciso? Quindi si è assunto in qualche modo anche la responsabilità di quel personaggio. Dunque tu cacceresti anche Leo Fredi, direttore di Rai 2. Dovrebbe essere chi ha deciso che questa persona, di cui è nota, diciamo, la propensione a non assumersi responsabilità o comunque a usare il mezzo televisivo come se fosse in casa sua a parlare o nel bar, in questo caso anche chi ha assunto questa decisione deve rispondere, perché è vero l'osservazione che è stata fatta, cioè lì non è che non si conosca il modo di fare, o c'era un contratto. Infatti bisogna è quello che stavo dicendo, magari c'è un contratto particolare che riguarda Aldo Busi, cioè non deve bestemmiare, non deve dire delle cose contro il Papa, non credo che abbiano fatto un contratto di questo tipo. Comunque No, no, no, ma se l'hanno fatta, evidente, si sono messi al riparo anche da qualsiasi critica, critica del genere. Però, insomma, a me sembra, collegandoci anche alla vicenda di Morgan, che, sempre generalizzando, ma non troppo, con un po' di provocazione, è possibile che la RAI si erga un po' a cattedra morale di quello che accade in Italia. Cioè, un cantante che fa delle osservazioni, certo, fuori luogo, sulla droga, sui propri abusi, tra l'altro non alla RAI ma ad un mensile, non può cantare a Sanremo. Busi dice quello che dice, delle cose grosse sul Papa, e subito viene escluso dalla RAI. Insomma, possibile che tutte, che proprio tutte, tutti gli eccessi non abbiano, non abbiano cittadinanza la RAI, e che la RAI si debba ergere a cattedra morale? Tu che dici? Su questo, appunto, poi si genera, non si può, sarebbe la fine di ogni possibilità di invito di chiunque, perché non tutti abbiamo sì, qualche errore, no? Cioè, è un po', no, un po' una china che si può prendere, o sbaglio? Però la china vera che di questi, queste vicende rivelano è che c'è, che c'è un, uno sgretolamento, una disgregazione che è complessiva, cioè che nessuno più si assume responsabilità, che gli strumenti e anche appunto la comunicazione, la RAI eccetera, è un po' allo sbando, perché evidentemente non ci sono più criteri elementari, buon senso, c'è, cioè una guerra. No, ma lì la responsabilità, tu hai ragione quando parli di responsabilità, cioè se poi alla fine è stato cacciato e si ha detto delle cose pesanti sul Papa, insomma, chi l'ha voluto per forza l'isola dei famosi si prendesse le sue responsabilità. Alla fine è questo. Va bene, grazie a Luigi Amicone, 19.50, andiamo a Venezia. Fabio, buonasera. Buonasera, signor Cristani, a tutti. Io mi sento un alieno, io in realtà vengo da un altro pianeta e vorrei tornarci. Io rispetto tutte le opinioni, anzi sono sempre fonte di curiosità, però effettivamente, cioè, trovo assurdo, io non riesco a capire come tanta gente creda alla tiritera che Berlusconi da anni dice, che i magistrati, la sinistra ha detto le regole, i tempi della politica, proprio quando, nei momenti importanti, e dopo non riesco, cioè trovo assurdo che le persone ancora oggi dicano, ah, Gesù Cristo è reincarnato nel Papa, e quindi come se non conoscesse la secolarizzazione della Chiesa. No, non ho capito niente, scusi, dire, Fabio, Vaticano, di che sta... la Chiesa Vaticana, voglio dire... Fabio, di che sta parlando? Scusi, non ho capito. Che ci sono delle, cioè, ci sono delle persone che sento troppo diverse, cioè, mi piace questa cosa, però veramente... No, io non ho capito di cosa sta parlando, di quale argomento sta parlando. Allora, della diversità... Facciamo ordine. Allora, ci sono i punti di vista veramente diversi che giustificano il fatto che il Berlusca possa dire i magistrati sono di sinistra, cosa che anche dal punto di vista logico non riesco a dire sì, può essere vero, e che la RAI mandi via una persona che abbia la libertà di dire quello che vuole, tanto lo si sapeva anche prima che era libero di dire quello che qual vuole. Qual è il collegamento, cioè, tra Berlusconi che dice che ci sono i magistrati che gli vogliono fare la pelle, e Busi, diciamo che ci sono soggetti diversi da me, sì. Talmente diversi che possono capire e credere a questa cosa. Cioè, ho capito, la condivide. Cioè, dunque? Ed è incredibile, perché poi io dico, ma non è... Cioè, ed è incredibile sentire, lei dice, queste generalizzazioni, queste chiassate... Ma sì, perché è come dire, la RAI dice, guardate cosa succede se non ci fosse una censura... Ci potrebbero essere persone che così... forse la RAI dice? Cosa dice? Non ho capito cosa dice la RAI. Beh, la RAI ha escluso una persona dopo che se l'era portata dentro e gli ha dato la possibilità di dire quello che voleva. Sì. Cioè, come è già stato detto da tante altre persone. E allora? Allora sembra che che ci sia la volontà di dire, serve una censura... Serve qualcuno che dall'alto dica tu no, perché ma no, così, ma lei, allora devi andare via. No, non lo so, ma Fabio, non ho capito bene. Comunque, dove andiamo? Massimo da Bergamo, buonasera. Buonasera, devo dire che apprezzo la sua trasmissione e anche questi commenti che mi consentono di scoprire quello che capita in televisione anche senza aver seguito trasmissioni. Pensi che alla RAI mi viene in mente la polemica di qualche settimana fa quando lei aveva difeso il cuoco dei gatti, insomma. Non mi tocchi il cuoco dei gatti, perché altrimenti ritornano gli animalisti all'attacco. Ancora ricevo delle mail a 20 giorni di distanza. Ma guardi, io su questo, su mille cose da critico, su questo l'ho apprezzato tantissimo. Per quanto riguarda Busi, come tutti i rivoluzionari, devono pagare lo scotto e pagare il fio delle loro idee rivoluzionarie, se no. Dov'è la responsabilità o la soddisfazione di anche di essere un po' rivoluzionario? Secondo lei Busi è rivoluzionario e illogico, perché dice delle cose che... Cioè, secondo lei Busi è rivoluzionario? È giusto, bisogna inaugurare anche un periodo di responsabilità delle cose che si dicono. Io mi assumo sempre la responsabilità delle cose che dico, addirittura lei stesso. E perché, perché secondo che lei... sapeva che il gatto è un animale di affezione, quindi eccetera eccetera, ma voglio dire... E se l'ha assunto anche con intelligenza, ha detto questa cosa qua non lo sapevo e io potevo anche vivere. Ma guardi che Busi penso che se ne sia assunta la responsabilità di quello che ha detto, non credo che anche sia. Adesso la responsabilità gli ha detto una cosa, anche un'accusa priva di senso e di logica, perché un discorso è l'appartenenza a un'ideologia o a una religione, una filosofia religiosa, un altro conto è l'omofobia. Ma infatti Busi paga la sua trasgressione, non è che si ribella a questa cosa, però lo sa quante sanzioni ci dovrebbero essere, però con tutto quello che sentiamo ce ne sarebbero tante, ce ne dovrebbero essere tante di sanzioni. Bene, 19.59, 800 24 00 24, fra poco avremo i telegiornali, siamo un po' in anticipo questa sera, intanto andiamo, direi no, TG5, eccolo qua. L'ex vicepresidente PD della regione Puglia, Frisullo. Le accuse per corruzione partono dall'imprenditore barese Tarantini. Berlusconi a Napoli, tempi della campagna dettati dalla magistratura politicizzata, no all'astensione, favorirebbe la sinistra. Le opposizioni, si occupi di cose concrete. 4 persone morte nel loro appartamento di Magenta, nel Milanese, vittime del monossido di carbonio. Il guasto nell'impianto, la causa della tragedia. Omar Favaro, autore con Erika De Nardo del massacro di Novi Ligure, racconta a Panorama la sua verità. Ora voglio solo rifarmi una vita. Un operaio veneziano, ora disoccupato, c'entra un 6 da 37 milioni al Superenalotto. Ma il tabaccaio non gioca la schedina e la vicenda finisce in tribunale. Disturbi del sonno per milioni di italiani. Le cause? Ansia, problemi familiari e di lavoro. I consigli dell'esperto. TG1. Tangenti di sanità in Puglia, arrestato ex vice governatore Frisullo, donne e denaro nelle accuse di Tarantini. Berlusconi, PM condizionano elezioni, no ai processi in TV, canone a rischio, dopo il voto riforma della giustizia, Bersani pensare a problemi reali. Stufa killer uccide 2 coppie di giovani rom in una casa del Milanese, da pochi giorni avevano abbandonato il campo nomadi. Napolitano in Siria, preoccupazione per insediamenti a Gerusalemme Est. In Israele torna l'incubo Razzi Kassam da Gaza. Nome in codice Princess, bionda, 27 anni, è l'unica donna pilota di un elicottero da combattimento. Il TG1 in volo con lei. Domani festa del papà, tra regali e dolci. In Pakistan un padre ritrova il figlio di 5 anni rapito da una banda. Il re degli chef compie 80 anni. Gualtiero Marchesi si racconta e dice: cucina molto meglio mia moglie. Va bene, 800 24 00 24, Berlusconi in campagna elettorale a Napoli, i magistrati dettano i tempi della campagna elettorale, poi scatenato anche su Santoro, sentiamo Sky TG24. Può dare luogo ad una riforma della giustizia radicale, così come anche di modernizzazione del fisco, ha parlato il Premier, ma se la regia è pronta possiamo andare in onda 2 estratti del Premier qui a Napoli, in questo padiglione 6 della mostra d'oltremare, peraltro non pieno come ci si aspettava, c'erano poche migliaia di persone, dove ci è rimasto poco più di un'ora. Sentiamo Berlusconi, eccolo qui, arriva, speriamo che mandino le frasi su Santoro, così almeno le sentiamo. Arrivano o non arrivano? No, non arrivano. Va bene, allora Marco da Frosinone. Sei pronto, mi sente? Sì, dica. Sì, senta Cruciani, io volevo porre una semplice considerazione. Volevo sapere, ma se Aldo Busi invece di parlare male del Papa parlava male del Dalai Lama, il risultato, il comportamento della RAI... Un attimo solo, Berlusconi. L'elencazione dei meriti e dei risultati di questo governo? Assolutamente no. Avete visto su un giornale qualche nostro esponente che ha criticato il malgoverno della sinistra nelle varie regioni che la sinistra ha amministrato? Assolutamente no. Perché? Perché con una strategia studiata a tavolino i temi e i tempi della campagna elettorale sono stati dettati dalla magistratura politicizzata amica della sinistra. E Berlusconi, dovreste vederlo, quando comincia a parlare di Santoro ha le vene che escono fuori dal collo, cioè cambia proprio espressione. Bene, Marco da Frosinone, prego. Sì, dicevo, Salvo Busi ieri sera invece di prendersela con il Papa, ma se la prendeva con il Dalai Lama, l'avvento della CAI sarebbe stato lo stesso? Ma guarda. Ma come non neghiamo in realtà? Torna nel discorso che Busi dice che qui è uno stato clericale. Scusi, se avesse detto il Dalai Lama è un imbecille non sarebbe successo niente, è vero, ha ragione, ma questo non significa nulla, non significa nulla questo. La religione deve rispettare tutte le religioni, deve rispettare tutte le religioni. Allora ha ragione Busi quando si tratta questo? Di uno stato clericale. Ma non vuol dire niente, non vuol dire niente. Invece di andare avanti, mi sembra che tutte le persone hanno libertà di espressione, ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Questo sistema della RAI mi sembra un sistema vecchio che si chiama oscurantismo. E nell'intervento di Busi di ieri sera lui lo dice chiaramente, dicendo che non può parlare in televisione dei suoi argomenti, ma deve utilizzare la diretta dell'isola di Smuti. La ringrazio. Grazie a lei Marco, guardi, io sono, per me Busi può stare dalla mattina alla sera in televisione, fosse per me, per cui su questo le do anche ragione, non è perché uno è sopra le righe non può essere invitato, perché altrimenti c'è la paura e il terrore di quello che può dire. Ivan da Varese. Buonasera Cosciani. Sì, anch'io vorrei parlare di Aldo Busi, ma visto che ha mandato in onda un'espressione di Berlusconi, volevo fare giusto dire un paio di parole su quello che ha appena confermato, cioè praticamente che è stato lui a chiudere e a voler chiuso il programma di Santoro, perché dato che se la sta prendendo con Santoro, per cui è stato giusto che ci fossero state delle intercettazioni. E poi, tra l'altro, a quanto pare non erano dirette a lui, esatto, le intercettazioni, non era lui interessato, erano intercettate altre persone, di conseguenza, avendo parlato con Berlusconi, probabilmente l'inquirente avrebbe detto, oh, va, una vecchia conoscenza, giusto? Se non ho capito male questo? Esatto, non era Berlusconi l'interessato delle intercettazioni. Ma no, non era Berlusconi, certamente, anche perché esatto, non poteva essere intercettato. Per dunque cui non è stato per la falsità di andare in televisione a dire che è stato intercettato il Presidente del Consiglio, è un'altra delle ennesime balle. Che sì, però Ivan, oggettivamente è stato intercettato anche il Presidente del Consiglio, abbia pazienza, è chiaro che non viene intercettato direttamente perché non si può, viene intercettato certo. Parla con altre persone, su. Sì, ovvio, ma se un capo mafia parla con me, ovviamente. Sì, perché adesso Innocenzi è un capo mafia adesso. No, va bene. Comunque il mio discorso inerente a Busi era sul fatto che comunque la RAI, facendo un contratto a un personaggio come Alto Busi, che sicuramente egli sulla lingua non ne ha, ha praticamente fatto un contratto a un pistolero armato con la pistola calda, per cui era quasi illogico che saltasse fuori in un momento o nell'altro con le sue exploit. Assolutamente, Ivan. La cosa più grave, secondo me, è la censura che viene fatta poi successivamente. Per cui o si dà un indirizzo etico alla RAI, per cui qualsiasi cosa, e poi casualmente spariscono tutti questi personaggi quando parlano delle più alte cariche delle varie istituzioni. Chissà come mai sempre vengono soltiti questi personaggi, i disturbatori, io li chiamo disturbatori. Guardi, però, Ivan, però me, nella RAI, sì? Che è un servizio pubblico, attualmente c'è una grave situazione di censura delle voci. Sì, ma lasci perdere, sono due casi diversi. Io ho detto semplicemente. Guardi, Ivan, secondo me c'è questo. Purtroppo è una questione di ipocrisia, e poi c'è il solito controllo della politica, eccetera. Se un'azienda decide di portare all'isola dei famosi Aldo Busi, poi si assume la responsabilità del fatto che sia Aldo Busi e se l'assume fino in fondo. Non è che dopo, siccome Aldo Busi fa Aldo Busi, che è il motivo per cui hanno chiamato Aldo Busi, altrimenti non c'è un altro motivo, lo eliminano da tutte le trasmissioni della RAI. Aldo Busi è quello che, eccetera, eccetera. Poi ne ha dette anche altre sull'adozione, eccetera, l'adozione per i single, è quello che vogliamo. Quello è Aldo Busi e dunque la RAI si dovrebbe assumere la responsabilità fino in fondo di quello che è accaduto. Ivan, e non credo che in assoluto non ci sia un problema di voci di voci, ci sono problemi di voci in Italia. Alla RAI certamente qualche problema di questo tipo c'è. Non per il caso Busi, e non da adesso, e non da quando c'è Berlusconi, in generale, in assoluto. 20:10. Siamo qui, 20:13, 800 24 00 24. Lucio da Perugia, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, il mio intervento era focalizzato su Santoro. Credo che quello che abbiate fatto sentire prima sia una conferenza stampa che lui ha rilasciato. Sì, sì. E poi a Santoro, è una cosa mia magari, devo rimproverare quella frase che ha detto quella volta in televisione quando da parlamentare europeo si è presentato e ha detto: io rivoglio il mio microfono. Quel microfono non è suo, ma è di tutti gli italiani che pagano il canone. E questo lui lo sbaglia sempre, secondo me. Considera quel microfono suo invece che degli italiani. La ringrazio. Sul fatto che alla fine questa storia della sospensione dei talk show si stia riverberando contro il governo, però non c'è dubbio. Insomma, su questo mi sembra che le cose siano proprio così. Giorgio da Lecco, buonasera. Ho detto prima, Busi provoca, dice delle cose probabilmente senza senso, perché generalizza l'omofobia, eccetera. Però non si riferisce a tutta la Chiesa, a tutti i preti, no Giorgio? Sì, su questo io sono d'accordo con lei. Naturalmente tutte le persone che ascoltano, che vedono la televisione, sanno fare, riescono a fare un filtro di questo tipo, oppure prendono tutto così, no? Molto semplicemente. Secondo me, per parlare e per parlare bene, bisogna conoscere le cose, no? Ecco, sì, no, ma d'accordo, però insomma, si sa, in televisione, in programmi di questo tipo, se ne dicono di tutti i colori, certo, si tirano giù botte da orbita, certo, dal punto di vista delle parole. Per cui, ripeto, quello che io non sopporto è che scatta immediatamente questa storia della cacciata dei programmi della RAI, che sì, sia sì, Morgan, quello, che sia Busi, e poi ripeto, ci sono tantissimi tantissimi preti, tantissimi religiosi che non sono affatto omofobi, insomma. E poi l'omofobia non è che esiste solo all'interno della Chiesa, naturalmente, ecco. Sarà vero, dopo Miss Italia, vero un papa nero, nome Valvero, un papa nero che ascolta le mie canzoni, me ne sa perché sei nero africano. Però dico che se anche il papa si scaglia contro gli omosessuali, forse quello che ormai è risaputo, l'omofobo è un omosessuale represso. Sì, sì, ma questo vabbè. Lo dovrebbero avvisare, lo dovrebbero sapere. Si scoprono da sé. Allora, è l'omofobo il vero, che sia omosessuale o lesbica repressi, ma sono un danno per la società. Extra. Ed è questa la frase incriminata che ha portato all'esclusione di Aldo Busi da tutti i programmi della RAI. Uno dice: chi se ne frega, perché vabbè, Aldo Busi è escluso, saranno affari suoi. Però dopo il caso Morgan c'è quest'altro caso. Se uno è un po' sopra le righe, in questo caso certamente Aldo Busi è stato sopra le righe, scatta l'esclusione. C'è un altro ragionamento da fare, lo facevamo prima, ed è questo: insomma, la RAI ha preso Aldo Busi e l'ha preso perché Aldo Busi è Aldo Busi, non è che l'ha preso perché Aldo Busi è una un bravo ragazzo, è un sacrestano. No, Aldo Busi è quello che vi abbiamo fatto ascoltare prima, cioè quello fortemente anticlericale, eccetera eccetera. Bene, ipocrisia, almeno secondo me, eh. Irene Pivetti, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Ha sentito? Sì, sì, ho sentito, sentito. Che dice lei? Esiste una specie di, come dire, di convenzione non scritta, ma rispettata di solito da tutti, che la religione la si lascia fuori da queste cose. Cioè alcune cose non si toccano. La religione. A me piacerebbe che fossero qualcosa di più che oltre la religione, cioè i valori più importanti fossero tutti rispettati, le persone fossero rispettate, eccetera, eccetera. Però la religione di chiunque, quindi in questo caso... Sì. Chiaramente il Papa è la religione cattolica, ma la stessa cosa vale ovviamente per qualsiasi altra religione. Se avesse detto parole più valenti su, non so, su un rabbino, su un imam, ovviamente saremmo tutti profondamente offesi, perché questo... la religione è una cosa che si rispetta. Anche chi, tra l'altro, io devo dire, la grandissima maggioranza delle persone che non credono rispettano comunque il sentimento religioso. C'è però più... mi scusi un attimo, qui in realtà non c'era un'offesa alla religione cattolica, no. C'è una considerazione sull'omofobia, certamente molto pesante, perché c'è un riferimento diretto al però... pontefice. Questo mica è non è un dettaglio, cioè non è che se l'è presa, per dire, con un sacerdote, già mi disturberebbe molto, sì, perché io credo che l'uomo di Dio va rispettato a prescindere, ma il Papa è Gesù sulla terra dal punto di vista, quando parla ex cattedra eccetera, cioè è una figura di assoluto riferimento centrale nella vita di qualsiasi cattolico. Sul primato del Papa si sono giocati gli scismi della storia, quindi non è un dettaglio prendersela anche su aspetti che non sono di per sé religiosi, che riguardano la figura del pontefice. Sì. E poi io aggiungo, Aldo Busi come elemento di rottura mi va benissimo, ma proprio con quello se la deve prendere, cioè, ma dissacri quel che vuole, ma lascia stare i sacri. Però possiamo tornare alla considerazione che facciamo prima, cioè qualcuno si deve assumere la responsabilità di aver chiamato Aldo Busi, perché Aldo Busi è quello là Aldo Busi, cioè Aldo Busi non è uno che spara zero sulla qualsiasi reality normalmente, sì. Questo succede però abbastanza sempre, e questo Aldo Busi pure lo sapeva. Adesso io non conosco il contratto di quelli che vanno all'isola, quindi se prevede esplicitamente in caso di vilipendio della religione o di frasi, non lo so, può darsi pure che ci sia, idea. Però per dire, al Grande Fratello è successo due volte che hanno escluso qualcuno perché aveva bestemmiato, anche se poi quel qualcuno ha chiesto poi scusa perché gli era uscito, però è stato eliminato lo stesso, sì. Però in qui c'è qualcosa in più, è una persona buonissima per altri versi, ma gli è scappata sta bestemmia e lui ancora adesso si dispiace di averlo fatto, perché si dà per scontato che sulle cose più delicate, ma che bisogno c'è? Però io aggiungo un'altra cosa, perché io posso capire, vabbè, l'esclusione magari dalla competizione, tra l'altro era già stato eliminato, diciamo, ma qui non ci interessano le cose che succedono all'Isola dei Famosi, ma la cosa successiva, il passo successivo che fa la RAI è quello di escluderlo da tutte le trasmissioni della RAI. Ecco, io è questo che non capisco. Io sarà un grandissimo sforzo perché non mi sembrava già presentissimo. Sì, prima, questo quindi. Pure è vero. Questo anche... forse... Ah, beh, lei sa che poi nel contratto di quelli che fanno l'Isola dei Famosi in realtà ci sono partecipazioni. Sì, eccetera. È vero. Dopodiché con questo lui si garantisce, come dire, una certa nicchia, un suo mercato. Una certa visibilità. Questa è l'analogia con Morgan, che ovviamente era infinitamente meno grave quello di Morgan, ma insomma ci sta, no? Io dico una cosa. Alcuni magari è più grave l'inno, diciamo, alla droga che non l'insulto al Papa, diciamo. Allora, se andiamo a vedere sulla vita quotidiana, è chiaro che però io credo che nessuno ora della fine si sia davvero sentito indotto a assumere la cocaina dopo tutto quello che abbiamo spiegato e ripetuto in televisione proposito, certo. Ma in ogni caso lì si tratta di comportamenti biasimevoli, in questo caso si tratta di andare a toccare il simbolo incarnato di una religione, il simbolo, per modo di dire, molto di più che un simbolo, cioè la persona che incarna la sintesi di una religione, quando ci sono molti milioni di persone anche in questo paese che si possono... Però lei diceva ci sono delle cose che non si possono toccare, no? Cioè, ci sono delle cose che non valgono nemmeno i contratti su questo. La posizione della massima tolleranza è proprio che ci siano alcune regole rispettate comunque da tutti, che prevede tra l'altro prevede l'esistenza delle regole stesse. Sì, che già non è, per Busi erano state violate ampiamente prima, comunque insomma questo è il discorso che facciamo. No, però quello lì poi è un programma anche ad altissimi ascolti, insomma in questo c'è l'analogia un'altra volta con Morgan, cioè se tu ti vai a mettere in un programma che come dire in gergo si dice largo, cioè di quelli che guardano comunque in moltissimi, cioè, è ovvio che metti che la frase in sé assume una gravità di molto superiore, perché se quelle stesse cose lui le va a scrivere su un articolo di giornale, oppure le dice una manifestazione portate, come ha fatto, hanno meno risonanza. Ma ovviamente non solo meno risonanza, meno effetto, meno danno, raggiungono molte meno persone che possono, quindi magari una nicchia più precisa, più non so, orientata a disquisire con un certo cinismo delle cose del mondo, insomma. Ho capito, senta Pivetti, le faccio ascoltare. La rete nazionale popolare, in un programma ultra popolare, a dire una cosa, a sputare in faccia così direttamente, ma dai, su, per piacere. Le faccio ascoltare questa cosa perché c'è poi concludiamo una provocazione che abbiamo fatto prima, e se non fosse per questo e fosse per quest'altra cosa che è stato escluso Busi, sentiamo. Io sono una persona profondamente civile, per me per esempio pagare le tasse è un onore, e che io non ho mai avuto un solo centesimo in nero, perché per me pagare le tasse al mio Stato, al mio governo è un onore. Ma non è, e lo voglio ricordare, non è mica questo. L'unico qua? Non è l'unico siamo che paga in pochi, le tasse, siamo io in anch'io pochi, pago le tasse, perché le due Busi. Aliquote... Le due aliquote del 23 e del 33, che dovrebbe essere la prima legge da fare di un governo di destra come il nostro, non è mai stata fatta. Quindi se non fanno questa legge delle tasse, meno tasse, ma per tutti, a che cosa è servito Berlusconi? Che cosa ha fatto in 15 anni? Se non fa questa legge qua, che cosa fa? Berlusconi e le tasse. Da questo... questo è un gustosissimo siparietto. Io mi rammarico di essermi perso questo pezzo della puntata. Non l'ho vista. Questa è straordinaria. Io sono d'accordo al 100% con quello che dice Busi, tra l'altro, su quest'ultima cosa. Sul fatto che pagare le tasse è un onore, ha trovato un'espressione, tra l'altro, molto, molto meglio di quella di Padoa-Schioppa. Meglio di quella di Padoa-Schioppa, che diceva che le tasse sono bellissime. Si ricorda, no? Padoa-Schioppa non è un artista, non è un creativo come Busi. Padoa-Schioppa era soltanto innamorato della sua funzione semipredatoria in quella circostanza, ma comunque sia, trovo che invece questo qui ha detto una cosa sacrosanta, perché è vero, è un modo per condividere la responsabilità e molto sinteticamente. No, ma c'era anche quella critica a Berlusconi sul fatto che a che serve se non fa la riforma delle tasse, con due aliquote. La critica peraltro è una critica molto politica, ma aspettavo, quando ho sentito l'inizio della frase capivo dove voleva andare a parlare, ma aspettavo un attacco diretto, invece quello lì è una critica politica, anzi blanda, direi proprio blanda, critica politica a un operato di una maggioranza. Di questi tempi da parte dei politici si sente ben altro. No, certo. grazie, buona serata. Buona serata. Grazie Nani Pivetti, 20:26:40, Massimo da Sondrio, buonasera. Sì, buonasera direttore. Direttore, no, troppo buono Massimo. Sì, volevo intervenire anch'io per la questione Aldo Busi, sono contento e mi dispiace che abbia sia intervenuta la signora Pivetti, perché sostanzialmente mi trova totalmente d'accordo su quello che ha detto, sia è giusto escludere Busi per i motivi che ha detto Pivetti. Però una differenza, quando voi dite che deve essere sostanzialmente punito anche il responsabile della RAI che ha invitato Busi, io credo che il responsabile della RAI invece verrà premiato proprio per gli ascolti, lei dice. Per gli ascolti, perché poi la logica di tutti i reality. Io non sono. Sì, c'è da dire, qualcun altro ci fa osservare che cosa? Per esempio, che la Santanchè, che ha insultato Maometto, per esempio, è puntualmente presente dappertutto. Adesso io non amo molto questi paragoni, eccetera. Però è anche vero, siccome prima la Pivetti ci faceva osservare tutti gli insulti alle religioni andrebbero comunque sanzionati, puniti, eccetera, eccetera. Non è che... Però è chiaro che se uno prende un'altra religione, l'effetto è sicuramente minore. Ma infatti, non c'è dubbio. Siamo in Italia, per cui... Però è la logica del reality, succede tutti gli anni così. Io non sono un appassionato di reality, probabilmente settimana prossima lo guarderò l'isola per vedere se succede qualcosa, o comunque dentro di me scatterà quella malattia. Di però non ci sarà Busi, non ci sarà Busi. Ma però troveranno un altro motivo, perché poi i reality poi finiscono e di conseguenza... Dunque tutto costruito secondo lei? Ma tutta la televisione ormai è costruita, io su questo non ho più dubbi, purtroppo... Non lo so se questa cosa di Busi, su queste intemerate di Busi, non, secondo me non... Magari ci contavano alla RAI su queste cose qua. Grazie! Siamo qui 20:33, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta TG2. Arrestato Sandro Frisullo, ex vicepresidente della Regione Puglia, associazione per delinquere turbativa d'asta, reati contestati, lo accusa l'imprenditore Tarantini. Berlusconi a Napoli per la campagna elettorale, attacca i giudici, lecite le mie telefonate, inaccettabili processi in TV da Santoro, Bertolaso un eroe. Il presidente Napolitano in visita a Damasco si dice preoccupato per i nuovi insediamenti a Gerusalemme Est e per le conseguenze che ne possono scaturire. Al TG2 il presidente siriano Assad. Vigili del fuoco ed esercito hanno iniziato la rimozione delle macerie dal centro storico dell'Aquila, le telecamere del TG2 in uno dei siti di stoccaggio. Sandra Bullock tradita dal marito Jesse James mentre girava il film che gli ha fatto vincere l'Oscar, la statuetta sfascia le famiglie, è già successo ad Alberi e Hilary Swank. Bene, ascoltatori, andiamo a Napoli, Giovanni. Giovanni, buonasera. Una premessa, io mi reputo un liberale e come tutti i liberali reputo che tutti debbano poter esprimere la propria opinione e condurre i programmi come ritengono di doverli condurre. Il problema penso sia la necessità di una controffensiva culturale da parte del centrodestra. Come contraddittori c'è bisogno di contraddittori che vanno a sfidare Santoro nelle loro sedi con piglio, con arguzia, cercando di smontare quella connessione che io reputo ogni tanto falsa tra i fatti che vengono evidenziati, e in modo da poter riaffermare con una campagna culturale seria quella che si intende essere la realtà. Inoltre le volevo chiedere un'altra cosa. No, lei ha ragione su questo. Tra l'altro c'è un altro aspetto, Giovanni. Non si può sostenere il fatto che Santoro va mandato via dalla Rai, come ha detto Berlusconi questa sera a Napoli, perché altrimenti gli italiani non pagano più il canone, eccetera, eccetera. Queste sono cose senza senso. No, non si può dire questo. E poi diciamo mandare in trasmissione ad anno zero il proprio avvocato, perché più volte Ghedini è stato ospite, come sono stati ospiti altri parlamentari del PDL, o c'è una chiusura totale, diciamo, nei confronti. Noi pensiamo che quella trasmissione non vada bene perché non si può spiegare nulla, le nostre opinioni non possono passare, ma quest'anno almeno due o tre volte è stato ospite Ghedini, ma di che parliamo? L'argomento è processuale, si gioca su argomenti tecnici, forse un avvocato dovrebbe andare se il processo è mediatico. Mi permetto di ho capito, però se poi la conclusione è che ci sono solo dei processi, non è impossibile, non si possono fare in televisione, eccetera, poi l'avvocato di Berlusconi non ci deve andare, allora. Posso chiederle un'altra, o il parere su una cosa che mi interesserebbe molto. Ha mai notato, o meglio, ha mai raffrontato, non so se si possono far nomi, vabbè, facciamoli, due telegiornali nazionali, il TG3 e non Rai o Mediaset, il Sky TG24, li ha mai raffrontati, li ha mai visti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro? Beh sì, lo facciamo spessissimo, lo facciamo ogni giorno. Non le sembra che ci siano due mondi diversi? Cosa è interpretazione? Non è possibile che la realtà sia così diversa. Anche come graduazione dell'importanza delle notizie da dare, non è possibile, non è credibile. No, ma come non è credibile? È spiegabilissimo. Che non sia credibile, magari ha ragione lei, ma è spiegabilissimo. Cioè, il TG3 è un telegiornale che ha una chiara connotazione, diciamo, tra virgolette, politica, e dunque dà più enfasi ad alcune cose piuttosto che ad altre. Ha sentito, per esempio, questa sera c'era il titolo su Frisullo e sempre nel titolo c'era subito la spiegazione di Bersani, cosa che magari in altre occasioni non viene fatta. È, diciamo, un telegiornale in cui c'è un chiaro editore di riferimento, che è il Partito Democratico, in questo caso, nel passato era il Partito Comunista. È così, Giovanni, per cui la differenza di stile rispetto a Sky TG24, che è molto più asciutto, molto più secco, mi pare lampante, o no? Sì, ma andrebbe spiegato. Noi, voglio dire, noi tra virgolette più addentro, forse più, dovremmo spiegarlo probabilmente. Cioè, c'è un editore di riferimento, c'è il problema secolare dei rapporti tra l'editore e l'informatore. Diciamolo, così evitiamo, insomma, usciamo fuori dalle ipocrisie in Italia per una volta. No, certo che bisogna uscire fuori dalle ipocrisie. Infatti, certamente l'editore di riferimento del TG3 è uno solo. E poi le posso fare un'ultima osservazione. Berlusconi, prima lei ha passato, io sono da poco la sto ascoltando in radio perché ho fatto tardi al lavoro stasera. Anche studio aperto questa sera, aperto con Frisullo, di solito, diciamo, la politica è pure in secondo piano, studio aperto, anche lì c'è un editore di riferimento, anzi in questo caso non è manco troppo di riferimento, è un editore diretto, diciamo. Però quando si fa campagna elettorale, dice Berlusconi, noi non abbiamo utilizzato una parola nella nostra campagna elettorale per denunciare Non è vero, no, lui dice che non è passata una cosa, non è passata sui giornali o sulla stampa, diciamo, una critica degli esponenti del PDL all'amministrazione di sinistra, ma a parte che non è vero, ma insomma. No, perché voglio dire, poi sarebbe stata una follia, perché va evidenziata con forza, io sono campano napoletano, voglio dire, sono estremamente preoccupato da queste elezioni regionali. Perché? In che senso preoccupato? Preoccupato perché noi in Campania, a mio modo di vedere, abbiamo da 20 anni, noi siamo il contraltare della Sicilia. In Sicilia sono, penso, 20 anni che c'è un governo di centrodestra. Noi sono più di 20 anni che siamo governati dal centro-sinistra. Di che è preoccupato? Non ho capito. No, sono preoccupato perché secondo me, Cruciani, a prescindere dal colore politico che ognuno di noi, non colore politico, le idee che ognuno di noi manifesta e esprime tramite il voto, quando un nucleo di potere così tanto a lungo, e vale anche per Formigoni in Lombardia, mantiene le redini del potere in una regione, non è mai una cosa estremamente positiva. Ma questo non lo so, certamente il radicarsi del potere significa incrostazioni, non c'è dubbio, ogni tanto ci vuole un ricambio e molto probabilmente, così dicono i sondaggi, ci sarà il ricambio. Speriamo, quando non successe cose troppo gravi. Speriamo, adesso qui siamo nel campo della par condicio, lo sa. Siamo, va bene, mi perdoni. Per carità, siamo a poco più di una settimana dalle elezioni e non si possono fare proclami elettorali. Mi perdoni. No, sto scherzando, Giovanni, lei è stato molto soft. Marco, provincia di Roma. Salve, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Ma Io che ci sia un problema a Berlusconi è assodato, insomma, a destra, a sinistra, si è consapevoli che c'è un problema di questo personaggio, ma dall'altra parte la cosa che a me sorprende è che dall'altra parte non c'è un angelo che possa combattere, come si diceva prima, il demonio, no? Tutto questo si va a innestare in una società civile che ha perso... No Marco, però cerchiamo di capirci, di che stiamo parlando? Lei dice... Ma stiamo parlando del fatto, cioè, perché è permesso quello che accade oggi nella società? Perché è permesso il fenomeno Berlusconi? In un altro stato non sarebbe stato possibile, le panzane, le bugie continue, è una cosa al limite del ridicolo, no? Vabbè, Marco... Poi, sono un po' allergico a questo argomento, francamente. In un altro stato non sarebbe stato possibile. Non lo permetterebbe, come non permetterebbe quello che accade a sinistra, voglio dire, no? È la stessa cosa. Cioè si pretende di combattere un fenomeno che sembra che sia al di là della normalità democratica, di un alto senso civico, ma si combatte con degli strumenti. Ecco, si vede oggi arrestato in Puglia un personaggio esponente del PD. E allora? È chiaro che il paese è disorientato, non essendo in possesso di un altissimo senso civico, noi siamo indietro per senso civico rispetto all'Europa, questo non lo può negare nessuno. In Italia si leggono 2 milioni di giornali, di quotidiani, siamo 12 milioni di famiglie. Cioè, quello che accade a sinistra, io cito un fatto che sto raccontando da diverso tempo. Una volta mia nonna mi ha detto cosa fossero le Icare. Le Icare era lo slogan del Partito Democratico. A quel tempo il partito di Berlusconi si chiamava Forza Italia. Voglio dire, queste sono cose che non le analizziamo, non sì, le però, vogliamo ma, vedere. Marco, lei è passato dal fenomeno Berlusconi, Icare, che era Icare. Insomma, mi sembra un discorsi che sento da 15 anni, va benissimo, li possiamo fare. Parliamo della politica quotidiana, poi certo qualche riflessione si può anche fare. La ringrazio, Marco. Anna da Latina, buonasera. Ecco. Buonasera. Sono Anna, mi ritorno aiuta? Però sì, salto un attimo la politica e sì. Vado invece sul problema televisione, sì. Io sono una spettatrice, non diciamo che non ho particolari simpatie per destra, sinistra o clero, diciamo che è difficile vivere oggi e uno guarda la TV. Guarda la TV quando non è noiosa. Ma guarda la TV anche quando è facile vivere, mica ha detto che guarda la TV perché è difficile vivere, eh? No, la guarda di più quando è difficile vivere. Vabbè, e cerca quello che può essere, perché la TV è un ottimo narcotico, dico io, per il cervello. E a me fa benissimo, perché io sono una che guardo spesso la TV, purtroppo. Quindi, ritornando al fatto Busi, a me Busi non piace, però sicuramente la sua esternazione, quello che è stato, può essere di cattivo gusto, ma sicuramente non va mandato via, dato che è stato chiamato lì, proprio come diceva lei, perché si chiama Aldo Busi, ma soprattutto perché si esprime in un certo modo. Altrimenti Aldo Busi, quando come dire, quando è andato a un'altra trasmissione e leggeva dei brani e li commentava, giravano canale. Io ero tra quelle che girava il canale. Ma perché? Probabilmente sono limitata io, ma sono limitata io insieme a tanti milioni di italiani che cercano lo scontro. Perché ad esempio uno Sgarbi, che è una persona anche lui di cultura eccetera, quando parla dei quadri e di tutta la loro storia, come dire, lo spettatore comune che magari ha già una giornata satura di problemi economici e tutto quello che vuole, guarda Sgarbi quando grida, non quando parla dei quadri. Cioè lei dice viva le urla, viva il chiasso anche di Busi? Assolutamente sì. Ah, no, se non piace gira canale. Va bene, no, Anna, per carità, può essere anche un ragionamento da spendere. Grazie. Giuseppe da Rimini. Sì, buonasera dottor Cruciani. Io volevo fare appunto alcune considerazioni sulla questione di Busi, che al di là del fatto che indubbiamente le sue affermazioni sono piuttosto crude e possono e che capisco offendere la sensibilità di un cattolico osservante, offendere la suprema capo supremo della Chiesa, può essere offensivo. Però bisogna andare al di là, secondo me, cioè cercare di capire che cosa c'è sotto dietro questa affermazione di Busi. C'è il grosso problema che i mass media, mi pare che anche stasera siamo venuti fuori, e molto così superficialmente superficialmente il grosso problema dell'omosessualità che colpisce la Chiesa, e peggio ancora la pedofilia che ha scosso le coscienze in mezza Europa. Persino Angela Merkel ha chiesto spiegazioni e vuole una presa di posizione da parte del Papa, diciamo senza se e senza ma, cioè è qui che bisogna il punto del problema. Sì, però scusi Giuseppe, perché poi possiamo parlare del problema della pedofilia nella Chiesa anche a lungo, ma quale relazione c'è con la cacciata di Busi dall'isola dei famosi? Cioè, siccome Busi insulta la Chiesa e dice, beh, insomma, insulta anche a ragione in questo caso, non lo so. No, io non voglio affermare che ha ragione o meno o torto. Al di là del fatto che come forma è un momentino sguaiata, molto sguaiata e offensiva, però scuote la coscienza e dire, ragazzi miei, ma la Chiesa sta... ha fatto o sta facendo dei crimini nascosti. Lucia Nune pensa a un ritorno nel calcio. Se capiterà l'occasione lo farò. Ora che la latitanza... Tutte le vicende giudiziarie come si sono risolte? Sono chiuse. È un ricordo lontano. Hai fatto il patteggiamento? Patteggiamento. La giustizia italiana... C'è stato l'indulto? È tutto giusto. Cioè... E è chiuso, basta. Ha fatto il suo corso. Che accusa era rimasta in piedi? Ma non c'erano, sai, le solite cose. Comunque, tipo quando, che, quando tu patteggi... Vabbè, comunque hai patteggiato. Patteggiato. Ha patteggiato, quindi a posto. Per Lucianone l'Italia... In Italia la correttezza è quasi perfetta. È un paese di persone oneste. L'Italia è fra le più corrette del mondo. Sicuro, Lucia? Sicuro, al 100%. Lucci Gaucci, Giovanna da Mantova, buonasera. Sì, buonasera. Ascolti, io telefono sempre per la questione Aldo Busi. E Amiconi diceva che Aldo Busi, per essere in Rai, deve assumersi la responsabilità per quello che dice a milioni di telespettatori. Però io penso che questo valga anche per il Papa. Il Papa dal suo balcone, ogni domenica, in ogni altra occasione possibile... dice cose secondo me molto gravi, ma... che raggiungono ancora più persone di quelle che può avere Giovanna, ma quali Busi. Cose gravi dice? Abbia pazienza. Allora, guardi, Giovanna, quali sono le cose gravi che dice? Quali sono le cose gravi? Secondo me, guardi, teocrazia è la parola giusta. Ma quali sono le cose gravi che dice? Lei può non essere d'accordo. Ma lei può non essere d'accordo, ma quali sono le cose gravi? Abbia pazienza. Vuole un esempio. Dica. Dunque, referendum per la legge 40, il Papa invitava a non andare a votare al referendum. Parte che non mi risulta. Non me lo ricordo, ma non credo proprio che il Papa. Non me lo ricordo, me lo ricordo guardi, io. Guardi, Giovanna, io in ogni caso. Genetica. Sì, no, ma che c'entra? Ma essere. Due minuti. No, io le lascio il tempo. Io le lascio il tempo che decido io, innanzitutto. Primo. Secondo, non è. Metto giù il telefono, ma no, ma io decido io gli spazi degli ascoltatori. Non è lei che mi dice mi dia due minuti o mi dia tre minuti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, non c'entra nulla il Papa con le idee del Papa sulla procreazione assistita e le cose no. gravi. Uno può avere anche un'idea sulla procreazione assistita che non è la sua. Un'idea. Uno può avere un'idea sia sulla procreazione assistita sia sulle diciamo sì, sulla... influenza così tanto la politica? Sì. Guardi che la gente... Ma quali sarebbero le cose gravi? Si brucia anni di vita. Si brucia una vita intera. Per certe parole dette in modo irresponsabile, quando si parla che la ricerca genetica su malattie molto gravi che possono essere trasmesse in modo ereditario è una disinvolta, un disinvolto gioco di scienziati pazzi. Ma a me sembrano cose molto gravi. Io guardi, io le dico, io ho un problema genetico, si trasmette per generazioni. Io pago le tasse qui in Italia, io non ho un servizio sanitario nazionale che mi tutela niente su questa cosa qua. Sì, però Giovanna, mi scusi. Neanche prelievo di sangue, niente. Sì, ma mi scusi, io non voglio per carità affrontare con lei questo tema, che è un tema importante, eccetera. Sì, però qui stiamo parlando di un'altra cosa. Abbia pazienza, lei può essere contraria alle posizioni che ha la Chiesa su alcuni argomenti, e questo naturalmente è legittimo. Però non mi può fare il paragone. Il Papa dice delle cose gravi il Papa dice ogni domenica delle cose gravi, più gravi di quando, delle cose che ha detto Busi, ma non è un paragone, ma non è un paragone che si può fare. Io penso, guardi, dietro tutta la questione Busi, secondo me non ha dietro neanche l'idea della pedofilia, di per me ha la rabbia, ha una rabbia che non, lui non ha altro mezzo se non esprimere rabbia, perché non ha potere, lui è un omosessuale, il balcone sempre viene utilizzato dal Papa per la questione di discriminare le unioni tra persone dello stesso sesso. No, non mi pare che venga utilizzato sempre su questo. Non mi pare che venga utilizzato sempre su questo. Vengono utilizzate metafore, vengono utilizzate delle parole molto più in filosofia, molto più... Cara signora, la ringrazio. Grazie. Massimo, provincia di Milano. Buonasera, più veloci. Buonasera, mi scusi. Io volevo semplicemente intervenire relativamente alla situazione politica odierna in questi ultimi, di questo ultimo periodo, che è incredibile, sia da un lato che dall'altro non si pensa... Un attimo solo, Staffelli, prego. Strisce la notizia con Minzolini. Per dire che vogliono le notizie fatte in un modo piuttosto che... No, perché vogliono uno spazio, quell'altro spazio, sono cose che capitano, è una cosa fisiologica. La chiamano tutti. E c'è un dramma. Senta, vabbè, allora, siccome lei è uno che a cui piace cambiare le notizie, mi raccomando, io oggi... le ho dato il tapiro, che non venga fuori poi nei prossimi giorni che Staffelli l'ha incontrata per darle l'Oscar. Non è l'Oscar, non è l'Oscar. Il tapiro. Poi io però glielo ridò. No, per lei l'ha tapirato sul Mizzolini, mi raccomando. Okay? E non faccio TG taroccati, mi raccomando. Assolutamente. Bravo, io non ho mai fatto taroccati, altrimenti non c'è. Scusami tanto. Se io facessi taroccati, non ci sarebbe tutta questa confusione. Perché diciamo io faccio un editoriale e succede, diciamo, il finimondo. Ok, la ringrazio, glielo lascio. Ma lo tratti bene, Poi glielo riporto. Me lo tratti bene, ok. E non chiami Berlusconi adesso per l'intervista. Mi raccomando, non li chiamo. Speriamo. Cioè, c'è sempre quest'idea che assolutamente l'ha fatto l'altra volta. Mi ha chiamato Palazzo Chigi. Ma che c'entra? No, per dire tutto quello che era successo, uno diceva. Ma di che? Ma che c'entra? Ma tu lo sai di che ho parlato? Sì. Ho parlato di una cosa che di cui non si è parlato sui giornali, delle carte di credito. Ma lei è un uomo integerrimo, con questa faccia da Mastrolindo, deve essere tutto bello, tutto intero, tutto giusto. È il direttore del TG1. Si ricorda il tapiro, non lo lasci lì, è sul Mezzolino. Valerio Staffelli, Striscia la Notizia, Milano. Bene, 20:55, chiudiamo così, va, stasera. Stefano da Parma, Paolo da Foggia, Massimo, provincia di Milano, Glauco da Roma, ci risentiamo perché la chiusura è questa, chiusura perentoria, e abbiamo il giornale radio delle 21, ci sentiamo con La Zanzara domani 18:30, ciao! La Zanzara.